Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Todos somos americanos. Avete sentito la voce grave e fiera di Obama, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente americano che ha sancito davvero questa svolta epocale che c'è stata oggi nei rapporti tanto tesi per decenni tra Cuba e gli Stati Uniti, e quindi ha parlato di disgelo, lo ha fatto insieme a Raul Castro, fratello di Fidel. Ha ancora qualche diffidenza Raul Castro, però Obama ha promesso che i rapporti andranno sempre meglio, che si leverà l'embargo che grava su Cuba da tanti anni. Quindi iniziamo subito con questa cosa di grandissima portata storica, e l'avete sentito, l'ha detto in spagnolo Obama: todos somos americanos, siamo tutti americani, ancora una volta a confermare l'unità di tutti gli Stati Uniti, dell'America, insomma. Poi ancora una svolta sulla politica estera, che è quella fatta dal Parlamento europeo, che oggi ha votato una risoluzione per il riconoscimento della Palestina. Vedremo poi appunto quanto questa cosa abbia dei risvolti concreti nel prossimo futuro, insomma, in tempi stretti. E poi la sentenza tanto attesa sul caso, sul delitto di Garlasco, con Stasi condannato a 16 anni. Insomma, ne abbiamo a volontà. Se volete stare su temi più leggeri, l'affermazione del presidente del CONI Malagò, che ha detto: se fossi stato la Costner, Carly Costner, la pattinatrice, sul caso Schwarzer, il suo ex fidanzato accusato di doping, mi sarei comportato come lei, non l'avrei denunciato. Voi che ne pensate? Potete scriverlo sia al 349-238-6666, sia sempre, come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi, per accogliervi a qualsiasi ora. Vi faccio come sempre il quadro della giornata. Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi condannato a 16 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo d'appello bis per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Svolta nelle relazioni Cuba-Stati Uniti: Obama annuncia con Raul Castro il disgelo tra i due paesi e Washington toglie l'embargo. Medio Oriente: il Parlamento europeo sostiene il riconoscimento della Palestina, ira di Israele. Marò e crisi tra Italia e India, richiamato l'ambasciatore italiano. Ilva: l'azienda ha le casse vuote, secondo il commissario Gnudi dopo dicembre gennaio non ci saranno più soldi per gli stipendi. Notav: non era terrorismo il loro assalto a Chiomonte, ma per quattro di loro condanne ad oltre 3 anni. Scuola e paradossi: condannato per pedofilia un uomo insegna alle medie, indagine del Ministero dell'Istruzione. Poi il caso Spazer, come vi dicevo, Malagò difende Caroline Costner e dice: avrei fatto lo stesso. Cioè, lei non l'ha denunciato. Voi che cosa avreste fatto? Ma partiamo dall'attesa sentenza sul delitto di Garlasco. Alberto Stasi, unico imputato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto questo omicidio il 13 agosto del 2007 a Garlasco, vicino Pavia, è stato condannato a 16 anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Milano nel processo d'appello bis che era stato voluto dalla Cassazione. Stasi era stato assolto in primo e secondo grado dalla stessa accusa, prima appunto che la Cassazione annullasse la sentenza d'appello. I genitori di Chiara Poggi erano visibilmente commossi, hanno abbracciato il legale di parte civile Gianluigi Tizzoni. Poi cercheremo di ricostruire questa lunga vicenda. Spostiamoci subito all'estero con la grande svolta, vi dicevo, nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Barack Obama e Raul Castro hanno annunciato che i due paesi avranno normali relazioni diplomatiche e verranno aperte ambasciate e tolto l'embargo per persone e denaro. Il Vaticano e Papa Francesco hanno avuto comunque un ruolo importante in queste trattative. L'embargo americano a Cuba era l'ultimo muro della guerra fredda. In poche ore si è disintegrato dopo il rilascio del contractor americano Alan Gross, arrestato ormai 5 anni fa mentre distribuiva materiale elettronico alla comunità ebraica a L'Avana, e condannato a 15 anni di prigione per spionaggio, e la contestuale liberazione da parte degli Stati Uniti di 3 agenti cubani condannati per spionaggio nei confronti di gruppi anticastro a Miami. La svolta era dunque nell'aria da diversi mesi, dopo il progressivo allentamento delle restrizioni americane e il rinnovamento anche solo parziale della nuova dirigenza dello Stato caraibico. Obama e Raul Castro annunciano importanti aperture reciproche: cancellati i divieti sui viaggi dei cubani, ristabilite normali relazioni diplomatiche, aperte le ambasciate, quella a L'Avana già nei prossimi mesi. Con queste norme si chiude dunque un'epoca, iniziata nel 1962 con l'introduzione di un embargo commerciale americano contro l'isola. Secondo tutti gli analisti è dunque il più ampio cambiamento nella politica americana verso Cuba. Ora per Castro dovrà seguire una nuova stagione di rinnovamento non solo economico, ma anche di rispetto dei diritti civili delle opposizioni. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo cercheremo di raggiungere Gianni Minà, noto giornalista, ma soprattutto esperto di America Latina, amico di lunghissimo corso di Fidel Castro. E rimanendo sulle notizie che arrivano dall'estero, spostiamo su un'altra svolta, vi dicevo più piccola per il momento, ma certamente importante, che è stata questa risoluzione voluta dal Parlamento europeo per riconoscere la Palestina. C'è stata poi una dura reazione da parte del presidente israeliano Netanyahu e più tardi cercheremo di capire se questo passo sia più o meno simbolico e quali ripercussioni può effettivamente avere. Intanto continuano le stragi per mano dei terroristi islamici. Nell'est della Siria, in una fossa comune nella provincia di Deir az-Zor, sono stati ritrovati i corpi di oltre 230 persone uccise dai jihadisti dell'ISIS. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, precisando che le vittime, queste 230 persone, sono membri della tribù degli Sheitat, di cui era stato denunciato un massacro in settembre. E sempre a proposito di ISIS e degli integralisti islamici dell'ISIS, il Marocco entra ufficialmente nella coalizione internazionale che si è costituita contro questo movimento integralista, inviando il Marocco sul teatro d'operazione iracheno un numero imprecisato di F-16. E spostiamoci sulla politica italiana con le tensioni sulle riforme. Il calendario delle riforme diventa terreno di scontro fra PD e Forza Italia. Ai senatori democratici stamattina il premier Renzi ha ribadito la necessità di arrivare all'approvazione della legge elettorale entro fine gennaio per poi pensare all'elezione del nuovo capo dello Stato, visto che le dimissioni di Napolitano dovrebbero arrivare entro la metà del mese prossimo. Forza Italia chiede invece di ribaltare le scadenze, prima il voto sul Quirinale e poi quelli su Italicum e riforme costituzionali. Il Nazareno però se Forza Italia o altri hanno intenzione di andare per le lunghe o fare melina, deve essere chiaro che il Partito Democratico andrà avanti lo stesso per cambiare la legge elettorale, forte dei numeri e della determinazione riformatrice di cui l'Italia ha bisogno. Al Senato nel frattempo la Commissione Affari Costituzionali nel pomeriggio ha iniziato a votare i primi emendamenti all'Italicum. Per la sua entrata in vigore ci sarà una data certa, ha fatto sapere stamattina Renzi, che ha invece escluso l'ipotesi di una norma transitoria per una legge ponte da utilizzare nel caso si debba tornare al voto prima dell'approvazione della riforma elettorale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo ora di Ilva. L'Eni conferma che a fine anno scadranno le forniture di gas all'Ilva. Il commissario straordinario dell'azienda, Piero Gnudi, aveva detto oggi in audizione alla Camera di non credere che l'Eni cesserà le forniture perché sarebbe una catastrofe. Gnudi ha anche annunciato che non ci sono più soldi in cassa per pagare gli stipendi. Oggi purtroppo noi i denari li abbiamo finiti, abbiamo pagato gli stipendi di novembre e penso che abbiamo anche la possibilità di pagare gli stipendi di dicembre e più avanti non faccia fatica ad andare. E quindi ci si pone il problema di trovare una soluzione che, fra altre cose, anche la soluzione del commissario governativo era comunque una soluzione provvisoria, poi infatti la legge prevedeva che poteva durare al massimo 36 mesi, di cui 18 già passati. E siamo alla cronaca. 4 no TAV sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi per l'attacco al cantiere TAV di Chiomonte del 14 maggio 2013. La Corte d'Assise ha però assolto gli imputati dall'accusa di terrorismo. Condannati a 3 anni e 6 mesi per fabbricazione e trasporto di armi, danneggiamento e violenza, ma assolti dall'accusa più pesante, quella per attentato con finalità terroristiche. La sentenza della Corte d'Assise di Torino a carico di 4 notav detenuti da circa un anno è arrivata in mattinata. I fatti per i quali sono stati giudicati risalgono alla notte fra il 13 e il 14 maggio del 2013, uno dei tanti attacchi al cantiere dell'alta velocità in Valsusa. Per quei fatti la Procura di Torino per la prima volta aveva formulato un'ipotesi di reato di matrice terroristica caduta in fase di giudizio. Una sentenza anticipata di fatto dalla Cassazione che in primavera aveva annullato il provvedimento di carcerazione preventiva emesso dal Tribunale della Libertà. Ora chiederemo, anticipano gli avvocati della difesa, la revoca della misura cautelare. La sentenza è stata accolta fra le urla, libertà, libertà delle decine di simpatizzanti presenti nell'aula bunker del carcere delle Vallette di Torino, con loro anche le famiglie dei quattro ragazzi. Nel pomeriggio un gruppo notav ha occupato per qualche minuto l'autostrada del Frejus, mentre un altro gruppo ha inscenato una protesta a bordo di un treno all'altezza di Novara. Per lo stesso reato sono incriminati altri tre esponenti del movimento notav raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare la settimana scorsa e che dunque andranno incontro ad un nuovo processo. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Si torna a parlare di aviaria perché c'è un nuovo focolaio di influenza aviaria che è stato individuato in un allevamento di tacchini da carne del comune di Porto Viro, vicino Rovigo. Il virus è geneticamente simile a quelli rinvenuti in allevamenti commerciali in altre parti d'Europa. E occupiamoci anche di scuola, una storia che ha dell'incredibile. Condannato per pedofilia, un uomo ha insegnato per anni in alcune scuole medie della provincia di Torino. L'ufficio scolastico regionale ha avviato un'indagine su sollecitazione del Ministero dell'Istruzione su questo caso dell'insegnante di matematica attualmente in aspettativa, denunciato dal legale della vittima attraverso scuola.net e riportato su alcuni quotidiani. Questo fatto nel 2004, l'uomo è stato condannato per pedofilia a 3 anni e 6 mesi, pena poi ridotta della metà nel 2007 con il patteggiamento. Siamo in chiusura, il calcio, vigilia di campionato per Juventus e Napoli che poi lunedì si disputeranno la Supercoppa in Qatar. In panchina a Cagliari ci sarà, squalifica revocata infatti per Max Allegri dopo le tensioni del dopogara del match di domenica a Torino con la Samp. E allora via libera al tecnico bianconero che in Sardegna cerca 3 punti per rilanciare la sua Juventus, reduce da 3 pareggi e un solo gol segnato nelle ultime 3 gare tra campionato e Champions. Difficoltà di gioco e di idee, non fisica, spiega Allegri. Domenica la Juventus ha fatto una delle migliori prestazioni a livello fisico. Credo che abbiamo sbagliato tecnicamente, abbiamo avuto troppa frenesia. Di fronte a un Cagliari invischiato nei bassi fondi e quindi ancor più pericoloso, non bastasse la voglia di colpaccio che anima Zeman. La Juventus è sempre la Juventus. Dà stimoli e fa piacere giocarci contro. Spesso con un risultato negativo, però qualche volta le mie squadre ci sono riuscite. Poi lunedì sarà Supercoppa contro un Napoli che proprio con i bianconeri, ancor prima contro il Parma della nuova proprietà targata Albania, cerca vittorie e certezze dopo il pesante KO di San Siro col Milan. Benitez ha detto di aver rinunciato a 2 offerte nelle ultime 2 settimane pur di restare e vincere a Napoli. Ora tocca alla squadra dimostrare di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, adesso ci prendiamo una pausa aggiornando chi viaggia. Stavo guardando anche i vostri messaggi. Enzo 64 dice al 349-238-6666 a proposito della dichiarazione del presidente del CONI Malagò su Caroline Costner. Io in un rapporto di coppia è normale, dice, questo comportamento. Non è normale che si ricatti la fanciulla come è stato fatto. Giuliano da Roma, in un rapporto personale la denuncia è sgradevole, ma altrimenti è un dovere. E anche sulla pagina di Effetto Notte Giorgio scrive: beh, al limite non dovrebbe dirlo un rappresentante del CONI. Su questo si potrebbe essere d'accordo. Luciano dice: perché deve pagare per il suo ex? Chiara dice: ottimo esempio, complimenti, e questo è quello che sponsorizza la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi 2024, chiede Chiara. Raffaele: considerando che il tipo è un amministratore di un ente pubblico, non mi stupisce la risposta raccapricciante. Wally dice: certo che no, neanch'io l'avrei denunciato, l'amore è più importante. Vittorio scrive: ma chi si dopava, lei o quel signore che l'ha tirata in ballo? Che uomo di poco valore, dovrebbero radiarlo, tanto è infame. Queste le vostre diverse opinioni sulla questione rimessa di nuovo in primo piano da Malagò di Caroline Costner con l'ex fidanzato Schwarz. Vi ricordate il marciatore che poi è stato scoperto si dopava, e anche abbastanza pesantemente. Adesso anche lei rischia una lunga squalifica. Dopo parleremo di altri temi, un po' più gravi, un po' più pesanti. 349-238-6666 per le vostre opinioni, come la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, c'è Diego che scrive a proposito del voto del Parlamento europeo per il riconoscimento della Palestina. Dice: vergognoso questo riconoscimento europeo della Palestina, e come continuare a giustificare l'olocausto schifato da questa Eurasia. Oriana aveva ragione, evidentemente si riferisce alla Fallaci, anche se sicuramente non sono stati i palestinesi a provocare l'olocausto, e comunque una soluzione tra due stati, come si dice da tanto tempo, va trovata. Poi ne parleremo di questo argomento, ma sentiamo anche le altre notizie. Storica svolta, restando sull'estero, tra Stati Uniti e Cuba. Obama vuole l'addio all'embargo. Todos somos americanos, dice, siamo tutti americani. E il presidente di Cuba, Raúl Castro, dice: libera dei contractor e dei 007. C'è stato anche uno scambio di prigionieri. Mosca in difesa del rublo, mercati sul lotto volante. Confindustria che vede la ripresa, dice: ci sarà un recupero in un biennio. Poi il delitto di Garlasco. Stasi è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara, ne parleremo tra pochissimo. Renzi che spinge sull'Italicum, cerca di accelerare sulle riforme, ma c'è sempre Maretta all'interno della maggioranza, in particolare del PD, ma anche con Forza Italia. Poi sui Marò e crisi Italia-India, è stato richiamato l'ambasciatore italiano, e il Parlamento europeo che sostiene il riconoscimento della Palestina, come dicevamo poco fa. E poi questa dichiarazione di Malagò che difende Caroline Costner su Schwarzer: avrei fatto lo stesso, dice. E adesso occupiamoci della notizia che è arrivata in serata, di questa molto attesa sentenza sul delitto di Garlasco. Alberto Stasi, unico imputato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, vicino Pavia, è stato condannato a 16 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo d'appello bis voluto dalla Cassazione. Sentiamo un passaggio di questa sentenza. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Milano, prima sezione, all'udienza del 17 dicembre 2014 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro Alberto Stasi. Visto l'articolo 627 del Codice di Procedura Penale, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione del 17 aprile 2013, in riforma della sentenza in data 17 dicembre 2009 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, appellata dal PM, dal PG e dalle parti civili, dichiara Alberto Stasi responsabile del reato a lui ascritto ed, esclusa l'aggravante contestata e operata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di 16 anni di reclusione. Alla fine della sentenza i genitori di Chiara, commossi, sono abbracciati, hanno abbracciato i loro legali. Rita Poggi, la madre, ha detto: ora guarderò Chiara e le dirò ce l'ha fatta. Ma c'è Raffaella Calandra, ciao. Ciao, Roberto. C'è già un'ascoltatrice, a vari altri, ad esempio Clotilde, che dice: ma se Stasi è colpevole, perché solo 16 anni? È un calcolo proprio molto semplice. La procura intanto ne aveva chiesti 30, e il calcolo, la spiegazione sta nelle parole che abbiamo sentito del presidente della corte, ossia il presidente è partito dalla pena base per un omicidio volontario che è di 24 anni, con lo sconto di un terzo per il rito abbreviato, che è quello che ha affrontato Alberto Stasi, e poi è stata esclusa l'aggravante della crudeltà. Quindi un ulteriore sconto e si arriva a 16 anni. Questo è il cuore, diciamo, di questo verdetto, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà, che dà anche un po' il senso anche della fatica, diciamo, di questo processo arrivato appunto dopo le svolte che ricordavi. Infatti sono 7 anni. Poi c'è anche questa storia della Cassazione che in realtà aveva annullato la sentenza di assoluzione della Cassazione d'appello, esatto, quindi secondo grado. L'anno scorso ha riaperto di fatto il caso, perché altrimenti era praticamente arrivato in chiusura. Ha stabilito che la sentenza di secondo grado di assoluzione andava annullata con rinvio, come si dice in gergo tecnico, ossia ha ordinato un nuovo processo d'appello, criticando la valutazione di alcuni elementi come era stata fatta dai giudici di secondo grado e ordinando soprattutto alcune precise perizie che non erano state fatte. Da qui è ricominciato il nuovo appello, quindi l'appello bis, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, e quindi fino ad arrivare al verdetto di oggi. Però c'è questa cosa dell'aggravante, no? Che non è stata annullata, insomma, nella sentenza, l'aggravante di crudeltà. Questo è un dettaglio non secondario, perché innanzitutto ha portato a questo sconto, diciamo, della pena, che sarà chiaramente spiegato soltanto una volta che potremo leggere le motivazioni della sentenza, però è possibile già in qualche modo leggere, diciamo, in questa scelta che possiamo definire pilatesca da parte della Corte, un tentativo di compromesso, sia da una parte i giudici togati e i giudici popolari, che sono quelli che compongono appunto una Corte d'Assise, e quindi diciamo come in questo caso potrebbero aver avuto orientamenti differenti, ma pesa in qualche modo anche l'iter del processo fin qui fatto. Sicuramente questo sarà l'elemento su cui anche la Cassazione nuovamente dovrà pronunciarsi, ed è quello che in questo momento crea polemica, perché una ragazza di 20 anni uccisa con il cranio fracassato, come è stato per Chiara Poggi, merita o meno di vedere riconosciuta l'aggravante della crudeltà da parte della persona che è stata condannata per il suo omicidio? Dall'altra parte però, sull'altra bilancia, c'è la valutazione di quegli indizi a carico di Alberto Stasi, che fin dall'inizio è stato l'unico imputato di questo processo, che fino ad ora sono stati considerati sempre contraddittori e non sufficienti a portare ad una condanna. E questo è, diciamo, il grande enigma dei processi indiziari, laddove c'è anche il grande principio per cui in dubio pro reo, cioè in dubbio bisogna andare a favore dell'imputato. Evidentemente i giudici non hanno dubbi, perché altrimenti non potevano arrivare a questo verdetto, però sicuramente tutto quello che fin qui non è stato fatto, quindi tutte le perizie che sono state fatte in ritardo, tutti gli esami che non sono stati fatti, tutti gli interrogativi che tuttora rimangono intorno a questo caso, non è stata mai trovata l'arma del delitto, non sono stati mai fatti alcuni esami fondamentali, a cominciare da quello, o meglio, è stato fatto in ritardo, quello sul capello trovato nella mano sinistra di Chiara. All'epoca non fu analizzato, quando soltanto la scorsa estate i periti di questa corte hanno analizzato quel capello, ormai diciamo è stato impossibile ricostruire il DNA. Poi la famosa bicicletta. La famosa bicicletta che soltanto adesso per questo processo è stata sequestrata e non è stata mai effettivamente individuata, perché pare che la famiglia ne avesse anche delle altre. Le famose scarpe, quelle è stato un elemento cruciale che in questo caso ha inciso contro l'imputato, portando alla condanna, perché la perizia di questo processo ordinata dalla Cassazione ha stabilito che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe del sangue di Chiara, visto che lui quella mattina aveva trovato il corpo della sua fidanzata, aveva chiamato la polizia, aveva trovato il corpo della sua fidanzata riverso in una pozza di sangue sulle scale della sua villetta, quindi non poteva non sporcarsi le scarpe, cosa che fino adesso, diciamo, non era mai stata stabilita da una perizia, ma si era detto che la difesa aveva detto che le scarpe di Alberto erano fatte in un certo modo, erano idrorepellenti e quindi non potevano era possibile che non si sporcassero. Questo è stato un elemento abbastanza importante, e la valutazione differente di questo elemento alla luce di una perizia che fino adesso non era stata mai fatta, perché in questo processo è stata anche proprio simulata la camminata di Alberto Stasi all'interno della villa, ha portato a questo verdetto. È uno degli elementi. Cosa manca adesso? La Cassazione, terzo grado di nuovo? Sicuramente ci sarà di nuovo la Cassazione, a cui ricorrerà sicuramente, l'hanno già annunciato evidentemente, Alberto Stasi, e questo verdetto inevitabilmente ripartirà da questa sentenza e da quelli che vengono anche un po' considerati gli elementi un po' più che fanno discutere. Innanzitutto però bisogna aspettare le motivazioni, perché è da lì che poi gli avvocati di Stasi faranno il loro ricorso in Cassazione e valuteranno, diciamo, che cosa contestare. Fin qui, diciamo, è stato sempre detto, come anche Alberto Stasi oggi nell'appello alla Corte lo ha detto, non condannate un innocente. Fin qui la linea difensiva è stata quella del dire: vogliamo anche noi giustizia per Chiara Poggi, ma non se non ci sono gli elementi, non un colpevole a tutti i costi, ma bisogna avere gli elementi sufficienti per condannare una persona. Per chiudere, Raffaella, quindi sono passati 7 anni dal 2007, Cassazione a tempistica si può immaginare? Ma bisogna vedere un po' il calendario, ma nel giro di un annetto al massimo, anche meno. Staremo a vedere. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao Raffaella. E occupiamoci adesso della rivoluzione, della svolta epocale, diciamo, dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Dopo 55 anni di tensioni, il presidente Obama ha annunciato una revisione completa della politica con l'isola. C'è una storia complicata dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, ha detto Obama, ma adesso inizia un nuovo capitolo. L'ha detto in un discorso che sicuramente passerà alla storia. Affermazioni cui Raúl Castro, presidente attuale di Cuba, anche lui intervenuto in un discorso pubblico, ha risposto accogliendo il ripristino delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, ma affermando che tuttavia ci sono delle differenze. Obama ha fatto sapere che chiederà al Congresso di eliminare l'embargo che penalizza Cuba da tanti anni. Il primo atto della svolta è stata la liberazione del contractor americano, quindi questa specie di 007 Alan Gross, da una prigione a Cuba. E Obama ha detto: ringrazio Papa Francesco. E su una svolta storica come questa, come non poter sentire Gianni Minà, che è amico di Cuba da tanti anni, di Fidel. Gianni? Beh, preferirei che tu dicessi che sono esperto del continente latinoamericano. Certo, certo. Che non basta essere amico di qualcuno. Hai ragione, esperto di tante cose. Ho un'esperienza sul territorio e mi ero reso conto da qualche tempo che era inevitabilmente pronta questa realtà, perché è morto il comunismo, ha fallito il capitalismo, ma Cuba è ancora lì. Vuol dire che tutte le previsioni fatte in questo mezzo secolo su Cuba erano sbagliate. Non si era capito niente della rivoluzione. E ora c'è un continente latinoamericano che ha 11 nazioni con governi di sinistra o centrosinistra. Ecco la realtà. E gli Stati Uniti sanno di avere a che fare ora con un continente che non è più il suo cortile di casa. Quindi dicevi, era un passaggio inevitabile anche questo con Cuba da parte degli Stati Uniti e magari con Obama presidente, il Papa? Visto che... Obama prima non ha potuto, non ha avuto il coraggio di farlo. Negli ultimi 2 anni di mandato evidentemente ha preso il coraggio a 2 mani, anche perché non puoi tenere per 50 anni in blocco economico un paese solo perché ha un sistema politico che non ti piace. Fattene una ragione, non è che devono avere tutti il sistema politico che vogliono gli Stati Uniti. Era una storia imbarazzante, inquietante, quando 5 cubani, quelli che oggi poi sono stati liberati nello scambio con Gross, scoprono che in Florida si organizzano attentati terroristici da mettere in atto a Cuba, nel corso di 30 anni 3.000 morti. Tu capisci che forse prima tutto questo si doveva accettare, passava, c'è stata la guerra fredda, ma adesso non è più accettabile tutto questo. E c'è un continente intero che te lo dice, che è quello latinoamericano. Certamente Obama recupera, ma certamente questo fa bene anche a Cuba, molto bene a Cuba. Immaginiamo, Gianni Mia, e quindi che prossimo futuro avrà Cuba secondo te? Quello di sempre, cioè noi abbiamo sempre detto che chissà perché sarebbero arrivati gli americani a cambiare tutti. Sono passati 55 anni e non è successo niente, malgrado che certamente i cubani hanno vissuto con più ristrettezze. Però sono il paese che ha la più bassa mortalità infantile del continente, la più alta media di vita del continente, ha un servizio civile per cui quando arrivano gli uragani muoiono 2 persone e non 700 come a New Orleans. È un paese, un continente che va riletto adesso. Ma Fidel che fine ha fatto? Fidel ha 89 anni e scrive 2 articoli a settimana su Gramma. Quindi sta bene, diciamo, almeno è lucido. Si scrive. Io l'ho incontrato. È un vecchio che compie 90 anni l'anno prossimo. Complimenti, diciamo, la scorza dura. È stato bravo suo fratello, che noi non abbiamo mai molto considerato. Raul, è stato anni e anni ministro della difesa ed è stato capace di fare le trattative, evidentemente, con l'aiuto di tante persone, non ultimo, credo, Papa Bergoglio. Buona fortuna a Cuba allora, grazie Gianni. Grazie a voi, ciao. Ciao Gianni. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono sempre con voi. voi, Roberta Giordano. Stavo guardando anche le ultime agenzie, oltre ai vostri messaggi. Torna a parlare Berlusconi, il leader di Forza Italia, che dice: dobbiamo combattere la rassegnazione, perché quando tornerò in campo i nostri elettori torneranno tutti. Lo ha detto a quanto raccontano nel corso della cena con i deputati di Forza Italia. Immagino una cena prenatalizia. E poi per il Quirinale, perché sapete, ne abbiamo parlato anche ieri, che più o meno a metà gennaio Napolitano dovrebbe dimettersi, dice: per eleggere il prossimo capo dello Stato c'è bisogno di una convergenza, e sappiamo che su questo, insomma, lui dice che c'è anche un accordo nel patto del Nazareno, mentre dal PD smentiscono che ci sia anche questo aspetto in quel patto. E poi leggevo anche una dichiarazione del papà Giuseppe Poggi. Parlavamo prima della sentenza che ha condannato a 16 anni Alberto Stasi. Dice: non è una vittoria, non era una partita, non abbiamo vinto niente, questa è la tragedia di due famiglie. Effettivamente ha ragione. Sentiamo le altre notizie. Partendo dal delitto di Garlasco, per l'appunto, con Alberto Stasi condannato a 16 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo d'appello bis per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Svolta nelle relazioni Cuba-Stati Uniti, Obama annuncia con Raul Castro il disgelo tra i due paesi, Washington toglie l'embargo. Medio Oriente, il Parlamento europeo sostiene il riconoscimento della Palestina, c'è la rabbia di Israele, tra poco ne parleremo. In Marò, con la crisi tra Italia e India, tanto che l'Italia richiama l'ambasciatore italiano, l'azienda ha le casse vuote, e secondo il commissario Gnudi dopo dicembre e gennaio non ci sono più soldi per gli stipendi. Scuola e paradossi, vi dicevo, è stato condannato per pedofilia questo insegnante che continua a insegnare alle medie, e c'è adesso un'indagine del Ministero dell'Istruzione. E il caso Schwarzer, Malagò difende Caroline Koster e dice: avrei fatto lo stesso. Vedo ancora vostri altri messaggi su questo, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666 SMS qui. Elena da Firenze, per esempio, scrive: la responsabilità è individuale, non occorre delazione, cioè insomma spiare, cioè, o denuncia per un atto criminale come doparsi per gareggiare. Questo a proposito, vi dicevo, dell'affermazione del presidente del CONI Malagò, che ha detto che difende Caroline Koster, ex fidanzata di Schwarz. Dice: lei non ha denunciato, ma io avrei fatto lo stesso. E adesso l'altro tema di esteri molto importante di oggi. Vi dicevo, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato della Palestina sulla base dei confini del 1967, e appoggia il Parlamento europeo la soluzione a due Stati, quindi tra Israele e Palestina, con Gerusalemme capitale, e esorta la ripresa dei colloqui di pace. Però Israele l'ha presa molto male questa cosa. Netanyahu, il primo ministro israeliano, dice: gli europei sono degli ipocriti, la Shoah non ha insegnato niente. Poi c'è stata anche la bufera per la decisione del Tribunale europeo di Lussemburgo di cancellare Hamas dalla lista nera delle organizzazioni terroristiche. Hamas è un movimento palestinese, per motivi procedurali, mantenendole però in vigore gli effetti per garantire il congelamento dei beni. Però poi, dopo, Bruxelles ha chiarito, è corsa un po' ai ripari, ha detto: l'Unione europea continua a considerare Hamas un'organizzazione terroristica. Chiamo in causa Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, grande esperto di Medio Oriente. Ciao Ugo. Ciao, buonasera. Al quale chiedo prima di tutto di spiegare alle ascoltatrici e ascoltatori che cosa significa uno Stato palestinese sulla base dei confini del 1967. Abbiamo due ore di tempo, è una cosa per... Ma tu hai una capacità di sintesi straordinaria, come sempre, Ugo. So, no, che sono questioni impegnative. I confini del 67 si riferiscono a quelli precedenti allo scoppio della guerra dei sei giorni, quando Israele occupò Gerusalemme Est, Araba e tutta la Cisgiordania oltre a Gaza. Quando si intende ritornare ai confini del 67, non si intende tornare al 1967. Chiunque, anche i palestinesi, si rendono conto che è impraticabile, perché sul territorio tante cose sono cambiate, ci sono le colonie. Il punto è riprendere la trattativa su un'unità di misura. Quell'unità di misura non può che essere il ritorno, giusta anche e corretta, non può che essere il ritorno alle frontiere del 67, nel senso che, partendo da quel punto, da quell'unità di misura, sulla data, la realtà sul campo, poi gli israeliani e i palestinesi concederanno una parte del territorio della Cisgiordania e gli israeliani concederanno altri territori. Faccio un esempio: se per esempio c'è un cambio, date quelle frontiere vecchie che c'erano, se Israele ammette l'8% della Cisgiordania, solo ammettendo l'8% del territorio della Cisgiordania, riporta dentro i confini di Israele l'80% delle colonie ebraiche nei territori occupati, quindi questo ridurrebbe notevolmente l'impatto del dover evacuare le colonie il giorno, se mai ci sarà, ma non credo che nella nostra vita lo vedremo, se mai ci sarà la pace. E naturalmente Israele restituirebbe poi quell'altro 8% in un'altra zona di Israele. Ecco, questo si intende in termini negoziali. Naturalmente il processo è estremamente difficile, quello che ha fatto l'Unione Europea, come del resto, il Parlamento Europeo, come del resto i parlamenti del numero crescente di paesi, dei più importanti paesi europei, eccetto la Germania per ragioni storiche e l'Italia per ragioni incomprensibili, tutti hanno votato il fatto che tutti sanno perfettamente che uno Stato palestinese nascerà solamente attraverso un negoziato diretto fra israeliani e palestinesi, sulla base di quel principio, di quella formula che ancora per un po' resta ed è l'unica formula possibile di pace, cioè due popoli con due stati, naturalmente in pace e sicurezza. Ma questo negoziato non c'è, e soprattutto non c'è, lo ammettono anche gli americani che sono notoriamente filo israeliani, principalmente per colpa di Bibi Netanyahu, del governo israeliano attuale di destra centro. E quindi l'Unione Europea, come gli altri paesi europei, hanno deciso di fare questa cosa semplicemente per fare una pressione a favore del ritorno al negoziato di pace. Naturalmente questo non è possibile con una personalità come Bibi Netanyahu. Ci saranno elezioni il 17 marzo, elezioni anticipate in Israele il 17 marzo, sarà principalmente un referendum prima di tutto su Bibi Netanyahu e poi sulla possibilità di fare la pace o no. E qui arriviamo al secondo punto che tu hai citato prima, e cioè il fatto che la Corte di Giustizia Europea abbia, accettando un appello di Hamas, abbia deciso che Hamas non è più un movimento terroristico, e questo sicuramente sarà un elemento a favore di Bibi Netanyahu, ha fatto guadagnare il 2-3% di elettori. Ma lo è o non lo è un movimento terroristico attualmente Hamas? Sotto questo aspetto, diciamo sull'aspetto pratico, è rilevante, perché perfino il Ministero degli Esteri israeliano ammette che è una decisione irrilevante perché non cambia nulla. No, ma lo voglio sapere, per cultura proprio, alla fine Hamas. Hamas pratica il terrorismo, lo hanno praticato, cioè, due primi ministri israeliani sono stati, prima che nascesse lo Stato di Israele, hanno praticato lo strumento del terrorismo. In Austria, per esempio, molti ancora ritengono che Mazzini fosse un terrorista. Il terrorismo è fatalmente, sfortunatamente, uno strumento di lotta per chi non ha strumenti migliori. Detto questo, una società civile non può accettare, nel momento in cui viene praticato, che si pratichi il terrorismo. Oramai dopo l'11 settembre abbiamo imparato che ci deve essere un limite invalicabile oltre il quale un movimento di liberazione nazionale non può andare, e Hamas è andato abbondantemente oltre questo. Dimmi una cosa, dottor Mbali, però adesso questa risoluzione votata dal Parlamento europeo ha un riscontro concreto oppure è un passo simbolico che ha la sua importanza ma rimane simbolico? No, è un passo giuridico tecnico, ma che politicamente non ha alcun valore, anche perché l'Unione Europea, diciamo la parte politica dell'Unione Europea, Mogherini e il Ministro dell'Unione Europea e tutte le istituzioni politiche hanno sapito che non cambia nulla rispetto ad Hamas. Hamas continua ad essere considerato un'organizzazione terroristica, e quindi tutto rimane uguale come prima. Anche il Ministero degli Esteri italiano ha ammesso questa cosa, è che Bibi Netanyahu è già in campagna elettorale, ovviamente lui ha sempre giocato, già con tutte le volte che ha fatto le campagne elettorali le ha giocate sull'elemento della paura, che lui chiama bitachon, cioè bitachon in ebraico vuol dire sicurezza, cioè la sindrome di Masada, spaventare l'elettorato israeliano, e quindi Bibi Netanyahu ha cavalcato immediatamente questa notizia, questa headline che ovviamente fa scalpore, ma in realtà non, dal punto di vista dei rapporti dell'Unione Europea non cambia nulla, anche se, devo dire, cioè, se non parli con i terroristi, se non cerchi di parlare, non cerchi di avviare un dialogo, se non cerchi di avviare un dialogo con i nemici, non c'è possibilità di fare nessun passo. Con chi parli? Con gli amici? Chiaro Ugo Tramballi, ti ringrazio anche per la sintesi. Ciao Ugo, di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dunque. Dunque, riepilogando le notizie di oggi, storica svolta tra Stati Uniti e Cuba, Obama vuole l'addio all'embargo, todos somos americanos, dice siamo tutti americani, e il presidente di Cuba, Raul, libera un contractor e degli 007 americani. Mosca in difesa del rublo, intanto i mercati continuano a essere sul lotto volante. Il delitto di Garlasco, Stasi, Alberto Stasi, unico imputato, è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara, la madre di Chiara Poggi dice dirò Chiara ce l'hai fatta. Il condannato si dice sconvolto. Sulla politica Renzi spinge sull'Italicum, scontro sui tempi con Forza Italia. Sui Marò e crisi tra Italia e India, è stato richiamato l'ambasciatore italiano. E poi il Parlamento Europeo, ne abbiamo appena parlato, che sostiene il riconoscimento della Palestina con l'IRA dall'altra parte di Israele. I Notav condannati per Chiomonte ma non fu terrorismo, questa è la sentenza. E poi il presidente del CONI Malagò che difende Caroline Kostner su Schwarzer, accusato di doping, lei non lo denunciò, rischia una lunga squalifica, ma lui dice avrei fatto lo stesso. Europa 24 notte. Per l'Europa parliamo di Uber, ne avete sentito parlare, non c'è pace per Uber. Lunedì a Parigi i tassisti hanno bloccato le autostrade, nel pomeriggio il governo francese ha annunciato che in Francia dal 2015 sarà bandita Uber Pop, cioè l'applicazione che permette ai privati di trasformarsi in taxi con la propria auto. Di qui la decisione di Uber di presentare ricorso alla Commissione Europea contro la legge francese, un ricorso che potrebbe spingere Bruxelles ad aprire un discorso più ampio che lo porti a prendere una posizione chiara su Uber, visto che al momento ogni Stato agisce un po' secondo la propria legislazione. Per l'esecutivo europeo Uber resta comunque una fonte innovativa di trasporto, ma le autorità devono considerare di regolamentarla nel quadro della normativa sui taxi. Uber è tornata anche nel mirino delle autorità belghe. La sottosegretaria alla lotta contro la frode fiscale, Elke Sluijers, ha chiesto di verificare se la società americana rispetti la legislazione belga in materia. Anche qui la Commissione europea ha ribadito che per ora la competenza resta degli Stati membri. Intanto si moltiplicano un po' in tutta Europa gli allarmi sulla gestione dei servizi e sulle garanzie per i passeggeri. Sono sufficienti? Ci si chiede. Alessandra Schepisi lo ha chiesto a Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo. Come associazione di consumatori noi stiamo seguendo con molta attenzione e con molto interesse questa iniziativa di Uber, prima Uber tradizionale, ora Uber Pop. Crediamo che sia un servizio che con le dovute cautele, con le dovute garanzie soprattutto sia per chi lo svolge, sia per chi lo utilizza, è un servizio che deve avere un futuro e che deve essere eventualmente regolamentato nei limiti del necessario, ma che non deve essere vietato. Oggi la regolamentazione è certamente ancorata ad una e nasce da una situazione del servizio di trasporto pubblico individuale locale che non prevede questo tipo di trasporto, quindi è evidente che quella regolamentazione va rivista, e se impedisce questo tipo di iniziativa, come sostengono i taxisti, va rivista e va riformata. Ci sono delle tutele per i consumatori o ci sono delle segnalazioni che invece vi fanno? Segnalazioni no, però diciamo da alcuni episodi di cui si è sentito parlare, non solo in Italia, alcuni problemi che sono accaduti con queste auto diciamo di privati cittadini che mettono a disposizione per alcune ore o saltuariamente, occasionalmente l'auto per dare passaggi, si può pensare, e io ritengo che Uber debba, anche per il bene del suo business e della qualità di questo servizio, che è sicuramente gradito ai consumatori, questo dobbiamo ricordarlo, però perché abbia successo e perché possa affermarsi è necessario che Uber lo organizzi con estrema attenzione, che dia garanzie precise ai consumatori che si rivolgono a questo servizio di passaggio privato a pagamento, anche se a pagamento modesto, ma pur sempre pagamento. Quindi si tratta di un servizio che deve garantire naturalmente l'affidabilità dell'autovettura, l'affidabilità e la sicurezza dell'auto e del conducente dell'auto, e soprattutto il fatto che per qualunque danno o problema dovesse insorgere, Uber ne risponde. Questo è un punto fondamentale e sia già coperto. Il classico caso di sinistro stradale su cui si sta facendo un po' di polemica sull'assicurazione l'azione, la validità dell'assicurazione del conducente, io dico che a bocce ferme lì non ci dovrebbero essere problemi, perché si tratta di tutte le polizze RC auto obbligatorie, almeno in Italia, ma credo in quasi tutti i paesi del mondo dove c'è l'obbligo di assicurazione, questo obbligo copre anche gli eventuali danni a terzi trasportati, quindi non mi risulta che nessuna compagnia di assicurazione fino ad oggi abbia mai contestato la validità della copertura in un caso di questo tipo. Ecco. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E dopo l'Europa passiamo a un altro tema, quello di Confindustria, che si costituirà parte civile, ha fatto sapere, nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine su Mafia Capitale. Questo l'ha annunciato il delegato di Confindustria per la legalità Antonello Montante in occasione del seminario del Centro Studi di Confindustria sulla lotta proprio alla corruzione. L'obiettivo, ha spiegato Montante, è tutelare la reputazione delle imprese e la leale concorrenza sul mercato, ribadire così l'impegno di Confindustria per il rispetto dei valori cruciali di legalità e correttezza nei rapporti economici. E a questo proposito sentiamo allora Luca Paolazzi, che è direttore del Centro Studi di Confindustria, oggi a Focus Economia. Noi abbiamo stimato, attraverso un'analisi molto approfondita, che esiste una relazione negativa fra livello di corruzione e tasso di crescita del PIL della nazione. Più alto il livello di corruzione, più basso il tasso di crescita del PIL. Se noi fossimo stati capaci, dopo Mani Pulite, di reagire e di abbassare il livello della corruzione italiana ai valori francesi, questo avrebbe consentito di aumentare il tasso di crescita italiano dello 0,8% l'anno, che cumulato avrebbe portato un PIL più alto di circa il 19%, che sono 300 miliardi al valore di oggi. Alberto Urioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. È particolare, no, questa decisione di Confindustria di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro Mafia Capitale, perché diceva Paolazzi la corruzione abbassa il PIL, quindi ci rimettono anche le imprese italiane. Beh sì, è un modo eclatante e molto evidente di sottolineare questo tema. Insomma, è chiaro che il Paese non può permettersi di continuare in questa deriva che distrugge risorse, che distrugge l'immagine, che non consente di far confluire gli investimenti anche dall'estero, soprattutto che non consente appunto al PIL di liberare tutte le risorse che deve liberare, come si sentiva dal ragionamento che faceva Paolazzi. È un segnale molto importante che arriva dopo anche il protocollo di legalità, dopo il rating di legalità sugli appalti. C'è un grosso sforzo del mondo degli imprenditori di imboccare con grande forza questa via della legalità per dimostrare appunto a tutti che dal mondo dell'industria non c'è nessuno sconto per quel tipo di economia borderline che per tanto tempo poi in realtà si è vista nel nostro paese obiettivamente. Quindi Alberto, questo che cosa comporterà poi da parte di Confindustria? Il fatto di essersi costituita parte civile concretamente? Ma concretamente io credo che è una cosa simbolica, ma comunque evidentemente è un segno per rivendicare il fatto che c'è un'economia, un'imprenditoria sana che non si può permettere di identificarsi chiaramente con quel tipo di gestione di appalti, subappalti e quant'altro, ma è soprattutto un valore simbolico e politico, direi, questa scelta che per una volta, diciamo così, segue anche la via per cui si tenta di dimostrare che l'essere onesti paga e se proprio vogliamo essere cinici, che forse conviene, se proprio non vogliamo anche una cosa in più che sempre utile che convenga da un punto di vista etico e morale appunto. In ogni caso il paese deve imboccare decisamente questa strada della via virtuosa della legalità, perché l'illegalità, il sommerso, il borderline, alla fine questo paese rischia di distruggerlo e in parte lo ha già fatto. Grazie Alberto Urioli. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro.